se bellezze ne siem core fonde, ma Eccellenza, vado! Fai tuo piacere! Vieno il paniere, fa penitenza! Fame non ho! Oh, mi rincresce! Va di qua nel segno, da! Va! Oh. Oh, lasciami. Tu fino stasera stai fermo al lavoro e mi prometti, sia caso fortuna, si attreccia mio padruno, a pregar non verrà donna nessuno. Lo giuro, amore. Thank you. Oscando un falco, certo a quest'ora gli seguci le due brevi azzannano. Doman sul palco vedrà l'aurora, angelo che il belvario all'occio penderà. Toscaia palazzo, luce bella, luce aurora in caccia. Apri. Tarda è la notte. Alla cantata ancor manca la diva. E strimpellan gavotte, tu attenderai la tosca in sull'entrata. Le dirai ch'io l'aspetto finita la cantata. O meglio, questo biglietto e la verrà per amor del suo Mario per amor del suo Mario al piacere mio tal dei profondi amori e la profonda miseria abbia forte sapore la conquista violenta e il mellifluo consenso io di sospiri e di lattiginosi al bel lunare poco appago soffrò né accordi di chitarra né oroscopo di fior né far l'occhio di pesce o tubar come porpora. Bravo! La cosa bramata fa la seco e da sanzio e via la cento. la porta tagliò dai lamenti. Più forte, più forte. Cara l'ave. Pozzo del giardino va, spoletta! Hai tradito, maledetta! Eccellenza, quali nuove? Che vuol dire quell'aria qui qua? Come saggio di sconfitta? E sconfitta, come, come? Mamma di voi! Guarda qua! Non la parte di citor! Me la sto, me la sei in fuga! Thank you. troviamo insieme il modo di salvarlo. E allora si vede e falliamo. Intanto un sorso e fin di Spagna. Per rincorarvi. Quanto? Quanto? Il prezzo. Resta che un'ora. gran mi vita. Thank you.

今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。